Tempo di sport con Massimo Callegari. Amici di Radio 24, buon pomeriggio. L'onda sarà lunga, lunghissima, forse infinita, certo molto potente, quella che si portano dietro le 72 pagine del procuratore federale Palazzi, che riaprono in maniera ancora più gravosa Calciopoli. C'è chi ha parlato oggi, in particolare Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, di conclusione morale 5 anni dopo di quella vicenda del 2006. C'è chi ha parlato, come la Gazzetta dello Sport, di shock. C'è chi, come voi, sicuramente l'800 24 00 24, vorrà proporre e far sentire le sue versioni di chi continuerà a sentirsi danneggiato, di chi continuerà a sentirsi innocente, di chi continuerà invece ad attendere ulteriori sviluppi. In tutto questo, quello che deve darci il riferimento principale sono naturalmente le carte, sono le decisioni giuridiche, le leggi, le norme e quello che da questo potrà eventualmente scaturire. Poi ci saranno anche gli sviluppi sportivi, non nel senso di titoli o meno che verranno non assegnati, revocati o chissà ancora che cosa, ma anche nel senso di come gli ambienti delle due squadre principali coinvolte da questa vicenda, la Juventus e l'Inter, poi reagiranno attraverso i loro dirigenti, nel modo in cui vivranno anche le vicende di mercato, se questo comporterà una perdita o meno di entusiasmo da una parte, quindi quella dell'Inter evidente riferimento, o dall'altra invece permetterà di lavorare con meno pressione a quella dirigenza bianconera che sta riportando, secondo le richieste del suo popolo, la situazione su binari che vengono sentiti un po' così più propri dalla tifoseria bianconera. Però di questo parleremo più avanti. Ora, come vi dicevo in apertura, anche per voi, quindi anche per chi vorrà chiamare l'800 24 0024 o lasciare sms al 349 238 6666, facciamo riferimento alle carte e all'aspetto giuridico. Per questo è collegato con noi Salvatore Scarfone, avvocato, esperto di diritto sportivo, con ruolo all'interno della commissione disciplinare della AIC, l'Associazione dei Calciatori del Settore Tecnico. Benvenuto Salvatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Andiamo con ordine, partiamo dalla relazione di Palazzi e dagli aspetti più importanti che lui sottolinea in queste 72 pagine. Mi sembra che l'aspetto da cogliere, io cercherò di evitare il più possibile tecnicismi, però purtroppo qualche riferimento lo devo fare, mi sembra di cogliere alcuni principi che sono assolutamente condivisibili, cioè il criterio della omogeneità, nel senso che valutare fatti analoghi o simili nella stessa maniera, e quindi mi riferisco a quello che lui è riuscito a cogliere dalle carte, dalle intercettazioni, dagli altri sviluppi della fase delle indagini, e di relazionare anche in base alle normative. Mi riferisco per esempio al discorso relegato alla prescrizione, e poi alla fine esprimere delle valutazioni in ordine anche alla possibilità che il Consiglio federale segua l'altra via, che non è solo quella attraverso la quale bisogna obbligatoriamente passare affinché si possa infliggere una sanzione, che quindi è quella di un regolare processo che la prescrizione impedisce in questo caso, ma è quella, appunto, chiamiamola tra virgolette come si è chiamata in questi casi, politica. In questo secondo aspetto occorre fare riferimento, e così non potrebbe essere diversamente, al parere che fu espresso nel 2006 dai professionisti incaricati dall'allora Presidente Commissario Rossi, che analizzarono, a mio parere in maniera molto condivisibile, gli aspetti legati alla normativa, fecero una valutazione, si dice tecnicamente la valutazione, un combinato disposto delle norme che riguardavano questo aspetto, e trassero delle conclusioni. E mi riferisco in particolar modo a tre norme, una da ricercare nello statuto della FIGC, l'allora articolo 10, oggi l'articolo 13 riformato, perché poi nel 2007 fu riformato. E capiremo tra poco che questa riforma, anche se sottile, può avere un'importanza decisiva poi nell'attualità. Sì, possiamo anticipare che questa riforma, questa norma dello statuto, riformato di recente, amplia i poteri della federazione in questo senso, perché mentre nel 2006 si esprimeva in termini di assegnazione, adesso invece si esprime in termini di decide sull'assegnazione. Quindi la federazione, mentre nel 2006 assegnava il titolo di campione d'Italia, oggi invece si esprime dicendo decide sull'assegnazione. Questo porta intanto a dirimere quelli che erano stati i dubbi del 2006, perché gli esperti interpretarono questa assegnazione, quindi questa manifestazione positiva, anche in senso negativo, cioè così come assegna potrebbe anche decidere di non assegnare. Invece in questo caso, con la parola decide sull'assegnazione, si ampliano, a mio modo di vedere, i pareri, i poteri della federazione. Ecco, questo nell'attualità vuol dire e significa che il Consiglio federale, anche se non è un organo di giustizia sportiva, come sostengono i due esperti legali consultati dall'Inter, può decidere e revocare il titolo del 2005-2006? Allora, bisogna cogliere questo aspetto. Esistono due strade. Il discorso legato alla revoca, che è un provvedimento proprio tecnico, che però riguarda la sanzione, e per sanzione, ogni volta che parliamo di sanzione, dobbiamo tenere in mente che la sanzione può essere inflitta solo ed esclusivamente da un organo di giustizia sportiva, quindi attraverso un procedimento, nel principio e nel rispetto del diritto del contraddittorio, che in questo caso la prescrizione impedisce. E invece l'altro discorso relativo alla decisione appunto politica, in cui in questo caso si entrano in gioco altri meccanismi, i meccanismi di opportunità, gli stessi meccanismi che nell'unico precedente che ricordiamo, nel 26-27, quando fu revocato lo scudetto al Torino, fece sì che la federazione allora decise di non assegnare quel titolo alla seconda classificata. In questo caso, per capire questo doppio binario, bisognerebbe proprio approfondire anche l'altro discorso delle altre due norme, cioè oltre all'articolo 10 dello statuto, che concede il potere alla federazione, come abbiamo detto, bisogna anche leggere l'articolo 49 delle norme organizzative interne della federazione, più conosciuto con l'acronimo NOIF, e poi l'articolo 13 del codice di giustizia sportiva, allora articolo 13, oggi articolo 18, riportato tale quale. Queste due norme fanno riferimento, sintetizzo ovviamente, l'articolo 49 dice che la prima classificata acquisisce il titolo di campione d'Italia, qui stiamo parlando ovviamente della Serie A. Sì. Gli esperti da questo hanno ritenuto di doversi distinguere queste due situazioni. La prima classificata è la titolarità del titolo del campione d'Italia, cioè è possibile, secondo gli esperti, che ci sia una prima classificata, ma non necessariamente l'assegnazione del titolo, cioè è possibile, come nel 2006-2007, che la prima classificata, alla prima classificata venga revocato il titolo. Questo ovviamente per una serie di motivi che attengono alla opportunità. In quel caso si reputò che il campionato era stato falsato per una serie di illeciti che erano stati nel 2004-2005, esatto. Sì, allora, stavo parlando del 2006-2007, invece nel 2004-2005 si crea un'altra situazione, cioè vale a dire, in questo caso la penalizzazione della Juventus comporta una modifica nella classifica, allora automaticamente ci deve essere l'assegnazione, perché questo discorso dell'assegnazione, cioè dire acquisisce il titolo sportivo, equivale a dire un automatismo, cioè chi arriva prima acquisisce il titolo di campione d'Italia. Se la classifica viene alterata, quindi la Juventus retrocessa, il Milan di conseguenza, la prima risulta la prima l'Inter, automaticamente acquisisce il titolo di campione d'Italia. Questo spiega il perché, si legge su tutti i giornali, non vi è stato un provvedimento esplicito di assegnazione del titolo, perché non ve n'era bisogno. Sì. C'è soltanto ti interrompo un attimo, Salvatore, perché ci sono le notizie del traffico, naturalmente adesso poi noi ci sediamo in riva al Fosse, arriverà Londra. Onda lunghissima degli ascoltatori con tutto quello che si porterà dietro, cercheremo di rispondere naturalmente a chi proporrà le sue richieste, le sue considerazioni. Nel frattempo riporto anche le dichiarazioni di Tavecchio, che dice: vicepresidente vicario della Federcalcio e numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, bisogna stabilire se i componenti del Consiglio Federale della FIGC sono i soggetti che devono votare, e non è un problema di poco conto. Il Consiglio infatti non è deputato ad emettere sentenze di questo tipo, non si prevede che noi assegniamo o revochiamo scudetti. Stiamo cercando di rimere la situazione di Calciopoli ancora in un ambito giuridico, basandoci sulle carte, sulle norme, con l'avvocato Salvatore Scarfone, esperto di diritto sportivo. Naturalmente ci sono poi tante altre valutazioni da parte vostra, sms, telefonate. Tra poco sentiremo le prime, tra pochissimo, all'800 24 00 24. Una di queste, come scrive Fabio in uno dei tanti sms che stanno arrivando, è: non si tratta di innocenti ma di colpevoli impuniti che fanno anche la morale. Qui naturalmente, ripeto, si trascende l'aspetto giuridico e di violazione delle norme nel senso specifico, si va oltre, si va sul modo in cui poi dopo l'Inter ha ricevuto lo scudetto e lo ha fatto proprio, lo smoking bianco e tutte queste altre considerazioni che poi hanno portato a conseguenti reazioni da parte di chi allora era stato punito ed era stato ritenuto colpevole. Sulla base di questo naturalmente c'è anche chi dice e sostiene se effettivamente, no, la reazione poi tra poco di Moratti ve la farò sentire, si sentono così innocenti, così certi della loro innocenza, rinunciano alla prescrizione. Qui però vado in soccorso di Salvatore Scarfone e gli chiedo, da esperto di diritto sportivo, se questa precisazione di Palazzi è un'ovvietà, cioè si può rinunciare alla prescrizione, o è in realtà qualcosa di più, una sottolineatura e una sorta di invito all'Inter. No, io ritengo che sia soltanto un rilievo tecnico e un'ovvietà, nel senso che alla prescrizione l'imputato nel procedimento penale può rinunciarvi, perché in ogni caso è un beneficio, quindi il beneficio può essere dismesso, ma Palazzi credo sia chiaro da questo punto di vista, anzi sia molto tecnico, è rimasto molto ancorato a quelle che erano la lettura delle carte, quelle che sono quello che viene dalle norme, ma ha fatto la sua analisi. Poi ha di fatto, neanche tanto velatamente, rimessa la decisione al Consiglio federale. Questo perché? Perché giustamente Tavecchio, il Presidente, si era espresso in questi termini, però tenendo conto soltanto del discorso della sanzione. Siamo d'accordo che l'organo federale non può imporre alcuna sanzione, perché non è un organo di giustizia sportiva, e soprattutto perché ci deve essere il rispetto del giudice del contraddittorio. Non ci dimentichiamo mai che la relazione di Palazzo è soltanto una relazione di parte. Quindi, dato che qui abbiamo in tutti i campi, quante volte l'abbiamo sentito, il principio di non colpevolezza fino a quando non c'è una sentenza, eccetera, tutto questo sono principi che attengono appunto alla possibilità dell'incolpato, del deferito in questo caso, di difendersi, eccetera. Quindi non è scontato che le deduzioni di Palazzi siano vere, certe, assodate, è soltanto una versione. Non sapremo mai, ritengo, perché non si rinuncerà, credo, alla prescrizione, non sapremo mai poi nell'ambito di un contraddittorio se questi fatti siano ritenuti veri o meno, quindi passino al vaglio di un organo giudicante. Però d'altro canto non si considera quello che invece avevano espresso i giuristi nel 2006, cioè la possibilità che l'organo federale possa disporre per motivi appunto di opportunità questa non assegnazione dello scudetto. Okay. Nel senso che io ritengo che ci siano ancora gli spiragli, a maggior ragione, come abbiamo detto, la modifica dello statuto dell'articolo 10, oggi articolo 13, che permette al Consiglio federale di fare questo. Ecco, poi forse... sì, ti chiederò poi dopo, eventualmente se avremo tempo, dopo aver sentito alcuni ascoltatori, se questo può portare a richieste di risarcimento danni di cui si è letto e si è parlato da parte dell'Inter. Però ci arriviamo, riporto anche le parole del presidente della Lega DB Andrea Abodi: il 18 luglio bisognerà prendere una decisione, bisognerà esprimersi in un senso o nell'altro, è ovvio che la nostra non sarà una decisione giuridica ma una scelta politica, che però deve essere presa per scrivere la parola fine sullo scudetto 2006. Le parole di Moratti: spero che a freddo possa rivedere le sue posizioni, nessuno mette in dubbio le qualità umane di Facchetti, ma la relazione di Palazzi è molto chiara. Sentiamo allora le parole di ieri di Massimo Moratti e poi spazio alle vostre opinioni e alle vostre telefonate. Beh, il peso che do io è brutto, nel senso che mi sembra di essere tornato nel clima, nel bruttissimo clima che vivevo quando c'era Calciopoli e nessuno lo sapeva, faceva finta di saperlo. Cioè uguale la trovo come cose, cioè queste accuse sono brutte. Io proprio sinceramente taglio la mia persona che è di conseguenza, ma minimamente che Facchetti venga considerato così come è stato considerato in queste accuse è talmente una cosa offensiva, grave, stupida, che chiunque lo conosca, i tifosi dell'Inter lo conoscono perfettamente, i signori che saranno seduti intorno a quel tavolo per decidere non so che cosa lo conoscono perfettamente. Io credo proprio che questo sia stato, non c'è nessun elemento nuovo, stanno giudicando quello che avevamo già visto, che qualcun altro aveva giudicato come del tutto poco sussistente, poco importante. Mi è sembrato un attacco molto grave, pesante nei confronti della società, inaccettabile, totalmente inaccettabile. Posso dire chiaramente Palazzi si sbaglia proprio. Questo è un attacco del PM e vabbè, senza processo questa cosa uno può dire quello che vuole. Io non l'accetto, non l'accetto nella maniera più assoluta, l'Inter non accetta questa cosa e quello che fa di tutto un cattivissimo gusto è il fatto che sia coinvolto Facchetti. Non lo faccio perché è un modo di dire una persona che non c'è più, perché è una persona che non c'è più che io ammiro e stimo per la sua onestà, e siccome in questo momento viene visto e viene giocato diversamente non stimo per niente chi ha fatto questa cosa. L'Inter si muoverà difendendosi tranquillamente, non vi preoccupate. Io lavoro per i miei tifosi, non lavoro per quella gente lì. Grazie. Questa è la reazione di ieri, molto accalorata, di pancia in alcuni tratti da parte di Moratti, con riferimenti costanti alla figura di Facchetti, ma insomma poi vi leggerò anche un paio di brani di articoli sul Corriere della Sera e su Repubblica che riassumono la situazione da un punto di vista naturalmente più completo. Giuseppe Davarese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Due domande velocissime. Su una sulla prescrizione. Sì. Come mai Palazzi ci ha messo più di un anno per tirare queste conclusioni talmente ovvie? E se le avesse date subito le sue conclusioni, se non si andava in prescrizione? Sì. Una cosa. La seconda considerazione, teniamo conto che se Moggi non metteva di tasca sua i soldi per tirare fuori queste intercettazioni, nessuno sapeva niente perché l'Inter non era intercettata. Va bene. Salvatore Scarfone, ci puoi chiarire su queste due richieste del nostro ascoltatore? Sì, volevo tranquillizzare l'ascoltatore nel senso che l'avvio di un'indagine interrompe la prescrizione, quindi non dipende dal tempo in cui ci mettono gli inquirenti a fare l'indagine, dipende soltanto da quando perviene la notizia di reato, la notizia per passibile di deferimento su cui indagare. Dato che questa notizia avvenne passati il quarto anno da quando successero i fatti, il quarto anno agonistico, la quarta stagione agonistica, chiaramente la prescrizione era già scattata, perché in quel caso invece in corso di indagine, con l'indagine in corso, i tempi si interrompono e fino a un massimo della metà del termine prescrizionale, quindi invece di 4 ci sarebbero voluti 6 anni. E sulle intercettazioni pagate di tasca sua, cioè diciamo sull'attività processuale pagata di tasca propria da Luciano Moggi? Questo attiene ad un'altra importante differenza tra la giustizia ordinaria e quella sportiva. Ci sono alcuni fatti che per la giustizia ordinaria sono assolutamente irrilevanti, vengono ritenuti rilevanti, non assumono a fatti rilevanti perché scatti una notizia di reato oppure il PM possa sostenere l'accusa nel giudizio. Invece la soglia di attenzione, tra virgolette, alla giustizia sportiva è molto più bassa. Posso fare un esempio, no? Nel mondo reale, se qualsiasi persona va a scommettere, va a giocare al totocalcio, un all'oro, oppure va a giocare una scommessa, sicuramente è un fatto assolutamente lecito. Purtroppo nel mondo sportivo no, o meglio, per fortuna nel mondo sportivo no, perché è stata introdotta una norma per i tesserati a cui si fa divieto di scommettere anche in posti leciti. Questo fa capire come, essendo dei principi molto generali, molto fragili, per assicurare i quali la soglia di attenzione deve essere necessariamente più bassa, allora alcuni fatti che sono assolutamente indifferenti per il diritto ordinario invece per il mondo sportivo assumono rilevanza. per cui evidentemente valutati dagli inquirenti, dalle procure della Repubblica, quegli stessi fatti, da Palazzi invece sono stati ritenuti passibili di questo tipo di relazione e di questa considerazione. Va bene, se hai ancora qualche minuto rimani con noi, ci sono ancora un paio di ascoltatori, poi insomma ti lascerò e sentiremo altre valutazioni di altro genere, non strettamente giuridico, anche su quello che potrà succedere nei prossimi mesi, e nel caso poi ci fossero decisioni da una parte e dall'altra, soprattutto sull'entusiasmo o meno da parte del presidente Moratti, anche se ieri poi lo ha ribadito in maniera molto chiara nel suo ultimo brano, nelle sue dichiarazioni. Bentornati, ancora qualche istante con l'avvocato Salvatore Scarfone, esperto di diritto sportivo, per rispondere soprattutto alle vostre domande, alle vostre richieste. Poi sentiremo anche Gasperini, che in tutta questa baraonda poco fa ha completato la sua giornata di presentazione, piuttosto sereno, i capelli brizzolati ce li ha già e quindi insomma non potrà mostrare come Mourinho di sentire la pressione della panchina dell'Inter con l'evidenza del grigio sulla cute, ma ci arriveremo. Pietro da Milano, buon pomeriggio. No, non c'è. Massimo da Brindisi, buon pomeriggio, prego. Sì, sì. Buon pomeriggio. Senta, io sono un garantista nato, però vorrei che anche questo garantismo ci fosse stato nel 2006, quando, ricordo anche all'avvocato Scarpone, ci fu un processo illegittimo senza due gradi di giudizio fatto in 15 giorni su delle telefonate con accuse che prevedevano la violazione dell'articolo 1, non l'articolo 6, illecito sportivo contestato a Inter e Milan. Adesso all'avvocato Scarpone vorrei dire poi che le telefonate per cui Palazzi ha fatto una relazione e ha detto che l'Inter e il Milan hanno commesso illecito sportivo non sono quelle ascoltate nel 2006, ma quelle che sono state scoperte dai legali di Moggi e portate dalla Juventus in federazione. Quindi non sono telefonate che erano conosciute. Chiarissimo. Salvatore, come possiamo replicare? No, ma non c'è da replicare, sono delle valutazioni. Io non compio valutazioni sugli atti, là c'è stata un'indagine, poi c'erano state degli organi di giustizia che hanno deciso. Io posso solo dire, in estrema come valutazione riassuntiva, che forse si sarebbe potuto optare per questo tipo di soluzione. La giustizia sportiva aveva inflitto, in questo caso sì, una sanzione, che è la revoca dello scudetto. Questa revoca dello scudetto aveva comportato anche una variazione di classifica, a quel punto l'Inter si trovava prima in classifica, si sarebbe potuto valutare, come era stato fatto precedentemente, nell'unico precedente come abbiamo detto, valutare di emettere un provvedimento, visto che abbiamo detto che l'assegnazione di campione d'Italia è automatica in base all'articolo 49 delle NOIF, cioè a quel punto l'Inter automaticamente era campione d'Italia, tant'è vero che non è necessitato nessun provvedimento, ma c'è stata soltanto una comunicazione alla UEFA delle classificate in modo da partecipare alle competizioni europee, si sarebbe potuto emettere un provvedimento dietro valutazione di motivi, di opportunità, di non assegnare quel titolo. Forse allora, se ciò fosse stato fatto, non si sarebbe portato a distanza di tutto questo tempo quelle problematiche che effettivamente restano delle ferite aperte che possono avere delle conseguenze rilevanti anche da quel punto di vista che dicevi tu, di risarcimento del danno, via dicendo, di impugnazione. Ecco, c'è un'altra questione che è stata aperta soprattutto dal Corriere dello Sport, ma non solo, e qualcuno ci scrive per un chiarimento in questo senso. Esiste tecnicamente il diritto della Roma, che fu la squadra che arrivò alle spalle dell'Inter in quel campionato, eventualmente di vedersi assegnato il primo posto per il campionato 2005-2006 o no? Secondo me no, perché in questo caso intanto non c'è nessun provvedimento di modifica della classifica, finché la classifica non si modifica non scatta quell'automatismo. Se ci fosse stato un procedimento, in ogni caso il procedimento avrebbe portato ad una sanzione che però deve essere afflittiva. Afflittiva che cosa vuol dire? Cioè riformare una classifica del 2006, no? Infliggendo dei punti di penalizzazione all'Inter non sarebbe tanto afflittivo. La revoca dello scudetto certamente sarebbe una questione di non poco conto dal punto di vista dell'afflittività, ma forse una sanzione per il futuro sarebbe stata veramente afflittiva. In questo caso, abbiamo detto, può anche esserci la possibilità, perché lo prevedono le norme, che un campionato italiano di Serie A abbia un primo classificato ma non un campione d'Italia per quell'anno. Sentiamo Pietro da Milano, buon pomeriggio. Sì, buongiorno, sono il vicepresidente dell'Interclub Templari. Sì, dire che prego. Siamo indignati per la relazione di Palazzi è dire poco. Noi tifosi non dell'Inter, ma tifosi dello sport e dei valori che lo sport dovrebbe racchiudere, non possiamo credere che se il procuratore Palazzi avesse avuto la fortuna di conoscere il nostro presidente Giacinto Facchetti, mai e poi mai si sarebbe permesso di redigere una relazione così piena di accuse infamanti. Teniamo presente che la madre delle intercettazioni, quella tra Bergamo e Facchetti, è pubblicata da anni e mai come oggi sulle prime pagine dei giornali ci si stupisce di questa che viene definita come una novità. La madre delle intercettazioni è stata ascoltata e riascoltata un sacco di volte, come ha ribadito ieri nella sua esternazione di pancia, come la chiamate voi, il nostro presidente attuale Massimo Moratti, che ha fatto una conferenza che è un atto dovuto assolutamente nei confronti di Giacinto Facchetti, che è una persona che è veramente al di sopra di ogni rispetto. No, questo, Pietro, un attimo solo. Questa è una valutazione sulla persona che però, dal punto di vista giuridico, non è utile. Nel senso che ci sono poi delle carte e il procuratore federale, che come abbiamo precisato e ribadito, rappresenta l'accusa, quindi non al termine di un procedimento che, se verrà accettata l'idea della prescrizione, non ci sarà. Però attraverso queste carte, questa è la versione del procuratore federale. Non è messa in discussione il valore della persona, il valore morale. Qui ci sono delle carte giuridiche, c'è, secondo il procuratore federale, un contatto, una frequentazione diretta e una frequenza di contatti fra Giacinto Facchetti e rappresentanti della classe arbitrale e in ambito federale, che secondo lui portano a queste conclusioni. Non è una questione di non è un giudizio morale. Non so se Salvatore Scarfone mi può può completare questa mia osservazione, poi sentiamo anche Pietro da Milano e gli diamo la possibilità di chiudere questo dialogo. Salvatore. Io sono perfettamente d'accordo, nel senso, intanto non compete né a me né a chi non conosce le carte fare un'interpretazione. Le mie sono soltanto delle osservazioni dal punto di vista tecnico. Chiaramente l'Inter ha tutto il diritto, ma è giusto e sacrosanto, di difendersi in tutte le sedi laddove ci sia la possibilità di difendersi, ma in questo caso la cosa attiene soltanto ad un aspetto, appunto, di valore etico e morale. Io ritengo che in questo caso le valutazioni, appunto, attengano soltanto tanto a delle carte, a delle valutazioni di fatti che possono essere condivisibili o meno, ma che non intaccano il valore dei protagonisti. Nessuno, credo, mette in dubbio, tantomeno il procuratore federale, del grandissimo carisma e dello spessore sportivo umano di Giacinto Facchetti, però in questo caso è una valutazione, cioè mi limiterei alla valutazione di quello che si legge dalle carte. Pietro, poi la salutiamo. Io faccio una conclusione velocissima. Se andate a risentirvi la madre delle intercettazioni, sentite chiaramente come Giacinto Facchetti, con un tono pacato, praticamente spera e si augura che non venga designata la figura di Bertini, che poi, alla luce dei fatti, si è rivelato uno degli arbitri maggiormente coinvolti in Calciopoli. Conseguentemente, richiesta lecita, a fronte dei torti che l'Inter aveva avuto, Facchetti, essendo dell'Inter e avendo snasato quello che c'era dietro, chiedeva di poter far evitare che Bertini facesse parte Però io qui ho capito il suo ragionamento, la saluto, la ringrazio anche, insomma, per il modo in cui si è confrontato con noi, pur essendo un tifoso, e lo si è capito, molto molto coinvolto nella vicenda, come tutti i tifosi di tutte le parti coinvolte. Qui però subentra un aspetto che è quello che viene sottolineato sia nel pezzo di Mario Sconcerti che in quello di Emanuele Audigio su Corriere della Sera e Repubblica, cioè se c'era questa percezione e in alcuni passaggi anche lo stesso Palazzi assimila questa percezione di vivere in un sistema non completamente tutelato dal punto di vista di chi lo doveva tutelare e gestire, quindi questo è un po' l'aspetto e la vicenda vissuta anche dalla parte della Fiorentina. Però la reazione non è, dal punto di vista regolamentare, quella corretta, cioè di cercare di trovare in questo contesto non regolare un proprio binario preferenziale, un proprio canale per cui poter potersi difendere oppure poter trovare i propri vantaggi. Come dice Mario Sconcerti, c'erano altre 18 squadre coinvolte e sicuramente queste altre squadre non potevano essere soddisfatte e non possono esserlo nel verificare che c'era chi cercava di trarre dei vantaggi nei loro confronti. Questo è un aspetto cruciale. Salvatore, poi ti salutiamo prima della pausa. Hai qualcosa da aggiungere? Io penso ognuno chi ama il calcio debba chiedersi questo, ma è quel campionato, da tutto quello che è emerso, non solo dagli atti ma dalle sentenze, da quello che sta continuando ad emergere in sede penale, era un campionato regolare o no? Era un campionato che meritava un titolo, era stato falsato, era un campionato che rispecchiava quello che poi... questo, una semplicissima domanda, quello che credo che si debbano chiedere gli amanti del calcio, è giusto che in quel campionato ci fosse una squadra vincitrice? Ecco, questo, se da tutto questo la risposta è positiva, allora poi senza andare al di là all'analisi tecnica delle voci, dei timbri, poi tra l'altro la ragione dei palazzi di 72 pagine credo sia... abbia uno spettro molto più complesso, che cioè, non è limitato ad un solo aspetto, però al di là di questo soltanto per sottolineare la serietà dell'indagine basta, sì certo, no, perché poi anche altre figure come quella di Leonardo Meani sono chiamate in causa in maniera molto pesante, certo, relativamente al Milan, e altre figure come quella del presidente allora del Livorno, Aldo Spinelli, insomma effettivamente questo a conforto di quanto dicevi. Grazie per la partecipazione, spero di grazie essere stato abbastanza chiaro. Chiarissimo, certo. Grazie, a presto, l'avvocato Salvatore Scarfone. Arrivederci. Tra poco torniamo, ancora altre telefonate, una valanga interminabile, 800 24 00 24, sentiamo anche Gasperini, poi messaggi sms 349 238 6666, poi vi leggo un paio di passaggi di altre votazioni di colleghi appunto di questa mattina sui giornali, che possono dare così un quadro ancora più ampio della vicenda. Come nel vecchio Far West, senza tetto né legge, ognuno si faceva giustizia da sé, si organizzava per bande senza andare dallo sceriffo. Questo dice il procuratore federale Palazzi. Anche l'Inter ha peccato per legittima difesa. Fa pena che tutti si siano sottomessi ai banditi pensando non ci fosse altra scelta. Invece di denunciare e di cambiare un sistema deviato, lo si è costeggiato cercando di fiutare il vento. Questo scrive oggi Emanuela Audisio su Repubblica, e sono parole molto chiare espresse con una prosa sublime, come anche quella di Mario Sconcerti, che articola il suo ragionamento in maniera ancora più ampia e contestualizzata. Non significa che Facchetti abbia fatto le stesse cose di cui è accusato Moggi, ne ha fatte altre meno gravi che non era comunque consentito fare, lo si sapeva da tempo. L'errore di questa storia è che si è cercato di mettere Facchetti sulla stessa linea di Moggi, ma essere migliori non significa essere innocenti. Facchetti alla lettera sbagliò, ed è quello che poco fa cercavo di valutare con l'avvocato Scarfone sulla base di alcune telefonate, in parte anche rispetto alle parole sincere dal suo punto di vista e che non ci riguardano per quanto concerne la valutazione appunto della persona di Giacinto Facchetti, del presidente Moratti. Scrive ancora Mario Sconcerti: conoscevo Facchetti, non credo fosse capace di alterare l'equilibrio di niente, telefonava per cercare di pareggiare una partita che pensava persa, ma faceva qualcosa di irregolare e non regolamentare. Non c'era solo Moggi nella gara, c'erano altre 18 società che difficilmente avrebbero gradito preludi di quel genere al campo. Questo dovrebbe riportare l'integrità interista su livelli più vaghi. Proprio per la facilità di uno scudetto vinto a tavolino, conclude Mario Sconcerti, l'Inter potrebbe adesso rinunciare all'uso della prescrizione e farci giudicare dal calcio. Ha commesso un illecito, nessun'altra squadra ne avrebbe vantaggio. Sarebbero solo l'Inter e lo Sport. Credo che l'Inter debba questa conferma agli altri e a se stessa. Qui andiamo un po' più in là. Matteo da Vicenza, prego. Sì, buongiorno, signor Massimo Caligaris. Ci eravamo sentiti l'ultima volta un paio di anni fa per quanto riguardava Funes Mori e Omada. Sì, le avevo chiesto un parere tecnico e mi aveva abbastanza soddisfatto, diciamo. Ah, ecco. Attenzione, però io oggi volevo intervenire, no, ma so che lei è un profondo conoscitore insieme a Borghi del calcio argentino, quindi lo sentiremo Stefano Borghi per parlare un po' di Coppa America in questi giorni. Certo, aspetto con ansia. Ascolti, allora io volevo intervenire in base alla relazione di Palazzi, no? Di Calciopoli, presunta 2, no? Io vedo che qui l'Inter, praticamente, secondo le carte di Palazzi, ha infranto due codici, l'1 e il 6 della giustizia sportiva. Dal mio modo di vedere andrebbe punita in maniera esemplare, posso dire esemplare, perché tra l'altro c'è anche, secondo me, un sospetto di occultamento delle telefonate che sono uscite dopo e tutto è andato in prescrizione. Quindi la Juventus, secondo me, in questo caso... Pronto? Sì, no, sto ascoltando. Sì, scusi, con grande attenzione, perché poi non essendo un giurista, chiaramente cerco di... Certo, ma neanche io assolutamente, sono assolutamente fuori dalla portata di queste cose, però da quello che si legge si vede che, insomma, ecco, la Juve ha pagato, gli è stato levato praticamente quasi tutto, anche in un certo caso la vergogna dei primi tempi di dover dire sì, abbiamo rubato qualcosa, poi venendo a sapere 4 anni dopo che la storia era cambiata, diciamo, ecco. Ok, chiarissimo. Volevo sapere un suo parere su questo e ringraziarla, insomma, grazie. Va bene, grazie a lei Matteo. No, il mio parere, ripeto, che non è quello da giurista, è di chi ha letto con grande attenzione le 72 pagine di Palazzi, poi tutte le valutazioni giuridiche le ha fatte poco fa molto bene, secondo me l'avvocato Scarfone, è che quello che Palazzi contesta all'Inter nella sua relazione viene poi indicato con un metodo di paragone con altre società alle quali lui aveva imputato questi illeciti, e Palazzi ribadisce, precisa, che poi l'organo giudicante prese decisioni un po' diverse, cioè rispetto alle sue richieste iniziali le decisioni finali degli organi giudicanti furono un po' diverse, un po' più miti, in riferimento al Milan, alla Lazio, alla Fiorentina, alla Regina e alla stessa Juventus rispetto alla prima iniziale richiesta della Serie C. Quanto qualcuno scrive poco fa con un SMS è una valutazione da fare, ma difficile poi riportarla a quei tempi, anche se ce li ricordiamo bene. Se queste cose fossero emerse allora, nel clima che c'era allora, che era, insomma, di grande indignazione e di richiesta di punizioni pesanti, cosa sarebbe successo all'Inter? È un po' la risposta che si è dato, ha cercato di darsi Palazzi in questa relazione, però siamo sempre su una visione organica, ma non completa, perché non c'è poi la prova finale e non ci sono le valutazioni finali da parte degli organi giudicanti che c'erano state allora. Chiudiamo con Marco dalla provincia di Chieti, nonostante una coda lunghissima di ascoltatori, ma domani, insomma, c'è ancora spazio e tempo. Marco, prego. Salve. Prego, dica. Allora, da tifoso di calcio un po' resto amareggiato, anche specie nel sentire le parole del presidente Moratti. Posso capire lo stupore di noi tifosi che non siamo addentro alle situazioni, ma meravigliarsi di quello che succede nella società mi sembra un po' sciocco. Ora, non mi permetto di giudicare il presidente Facchetti, perché purtroppo non ha più la possibilità, perché purtroppo non c'è più, riposi in pace. Però il presidente Moratti, rinunciando alla prescrizione, può dimostrarci tutta la sua verginità, qualora abbia una verginità. Va bene, chiarissimo. Torniamo allo smoking bianco, insomma, al peccato originale per molti. Sentiamo l'uomo che addirittura oggi è arrivato a Piano Gentili in questa baraonda e gli hanno chiesto: ma non è che lei potrebbe essere magari quello che riporta un po' di serenità tra Milano nerazzurra e Torino bianconera? Gian Piero Gasperini. Sarei io? Non ho... No, io devo dire che è vero, ho allenato a lungo la Juventus, ma il settore giovanile, che non è propriamente la prima squadra. E ci sono tanti giocatori, tanti allenatori che sono passati da una panchina all'altra e magari non hanno avuto la stessa etichetta che ho avuto io, dove mi sono occupato essenzialmente di giovani, lo devo dire con grande orgoglio, visto che tanti di quei giovani oggi fanno parte della nazionale di Prandelli senza aver mai giocato in prima squadra, come non ho mai allenato io in prima squadra alla Juventus. Credo che il mio percorso sia comunque un percorso indipendente, anzi, se proprio devo dire, un attaccamento professionale in questo momento in più è quello rosso-blu, che vale per il Crotone e vale per il Genoa. Questo era Giampiero Gasperini. Domani torniamo sugli altri temi, quelli che avevo anticipato, che abbiamo dovuto così posticipare a domani, eventuali altri sviluppi anche sul piano tecnico, il mercato, l'entusiasmo più o meno carico delle due dirigenze. Per ora è tutto, grazie a Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. A domani con A Tempo di Sport da Massimo Callegari. Buon pomeriggio.